a proposito dalle qua. Ti metti un salvavita attaccato al muro e ti fai l'ingresso della 220 salvavita, è l'uscita dalla salvavita, la salvata, una volta che lo baci salvavita, ma perché si chiama così? Poi per capire le corrente come passa la salvata. Diciamo che il fulmine secondo quanto che velocità c'è scendendo, non venuta che lo ma il fulmine passa da tutte le parti, tu baci uno, tu pugano. In qualche posto passa, se io sono di amici che addirittura ti ha bruciato il motore del posto in campagna, computer, il tuo gatto, il televisore, ma come io, una volta ci sono un temporale e un fulmine li ha bruciato, motore del posto, computer e televisore. Sempre in campana, non ci metto a fare, però quando ho l'impianto, un massacro eccetera, come ho fatto qua, ti riserva molto le varie, capito? Tu immagini, andiamo a usare, sono quattro linee a 220, c'è la linea di Cratti, la linea della Bolaiese, la linea Sommercato, sono quattro linee, e con la settimana dove c'erano tutti i baracchini che si vede sul cuore del vetro, quello non c'è più. Sulla linea di classe, non so se dicevo solo io la linea di classe, ma non guarda ciò, io sono tutto a 220, se lì dovesse entrare a 220 diretta, la grande crisi si copia in vado, mi si copia anche in torno. Avanti, Marco Condo. Pensate che qua, siccome il condominio è una cacca per via dell'amministratrice, non c'è messa a terra in questo palazzo, qua non c'è salvavita, non c'è niente, se qua arriva un fulmine si porta via tutto, si porta via radio, computer, quattro televisori, frigo, tutto quello che c'è attaccato alla linea elettrica, anche se è spento ce lo porta via. A parte che mi sembra che sia obbligatoria la messa a terra, noi ce l'abbiamo sul tetto, però ce l'ha vista. Infatti lì volevo attaccarci le cose dell'antenna, ma poi Vittorio mi ha detto che se attacchi quello lì al palo dell'antenna li fa da coso, da parafulmine. Praticamente lo attira davvero il lampo, il fulmine. Mamma mia, lascia perdere già. No. Lui ci ha fatto per l'antenna TV, non attaccare nulla, lascia la diretta così. Assolutamente, l'unico pericolo delle verticali è la punta che può attivare, però batte sia isolata, ci sia un tappo in gomma, qualcosa in gomma, non fa niente, assolutamente, capito? Non ribuì nulla, lascia perdere. Ma ti immagini addio quando ero venuto qua nell'85, che stavano ancora finendo, cioè nell'83. Avevo fatto lasciare i giallo-verdi fuori dalle prese, se non mi avevo collegato allora avevo comprato il primo 430 da Mario, Mario Notari, Marco, pagato una barca di sud, mi sono collegato la T250, cioè la T PS30, PS430 che era della linea, e dietro c'è il pomerino, mi sono collegato il giallo-verde. A contemporanea mai, giusto, tutto scaricato sotto la massa della 220, mai giusto la radio, sciolta è. Avevo sentito tempo fa Vittorio in UHF che stava parlando di quell'argomento, che è meglio non metterla a massa l'antenna, perché diciamo che favorisce il contatto tra terra e l'antenna, quindi se il fulmine cade in zona piuttosto che attraversare l'aria si attacca l'antenna e diventa un parafulmine praticamente l'antenna. Se entra dentro l'antenna così che prende il cavo, arriva sino a Giumi, ti spacca il muro, ti entra dentro casa, ma buffone di G. Lo so, per la potenza che ha il fulmine. Avevate visto sul giornale, a quello di Ossi, o di Osilo, che il fulmine gli ha beccato la macchina, ha perforato. perforato praticamente, ha fuso il vetro nell'1.8 anteriore a sinistra, lato guida, gli ha fatto un buco proprio e ha devastato il sedile. E tutto intorno al punto d'ingresso è annerito, sembra come un raggio laser, se ci fosse stata la persona seduta a sedile l'avrebbe incenerita. Ho sentito qualcosa, ma scusa un attimo, ma la macchina non è il mezzo più sicuro che isolare con le ruote in gomma? Allora, così si diceva, e hanno fatto vedere la foto col vetro perforato e intorno al buco tutto annerito, e quindi l'ha detto anche il giornale che questo mito della macchina che praticamente è isolata dal suolo è stato sfatato, a meno che non sia la bufala, ma... La macchina dovrebbe avere la massa a terra. Dovrebbe... Che sarebbe qualcosa di gomma che mettevano un tempo nelle 600, te lo ricordi? Quella specie di striscia che aveva il lampo disegnato. Sì, col filettino metallico all'interno. Aveva disegnato un lampo, no? Ed era in gomma, toccava a terra, e tu quando camminavi strisciava in terra. Sì, già me lo ricordo, sì. Praticamente lì, anziché toccare quasi il tettuccio, la carrozzeria, ha bucato il vetro. Una cosa allucinante, ho visto la foto. Deve essere che è sceso così, frontale. Io, guarda, a me hanno raccontato che una volta questo fulmine è sceso davanti a questa macchina, dice che ha illuminato tutto il giorno, di notte. Questa macchina ha rallentato perché c'era un fosso, è sceso questo fulmine, boom, e praticamente dice che ha illuminato la bagliaia. Tu pensa alla potenza che ha il fulmine, chissà quante volte, quante ampere ci passano dentro, soprattutto i fulmini grossi, o Gianni. Non sono riusciti ancora a misurarla la potenza. Chiaro grido, qualsiasi strumento che ci metti vicino lo brucia. Sì, lo disintegra. Boh, è un casino. Con l'Ener, attaccare queste tradici. Beh, non sono riusciti a concludere niente in quei 10-15 anni di proteste. All'era non viene fatto nulla, i tradici rimangono sempre lì. Tu immaginate che un bambino se dovesse essere lì in quei giardinetti, come lo trovi giocando ora? In piena estate se dovesse essere qualche fulmine. Te lo fa nuovo. Magari anche i tradici di alta tensione che attirano. Ma infatti c'è una manifestazione da poco qua a Carbonazzi Antone che stavano protestando proprio per questi tradici, capito? Perché è un casino, ma non c'è quello che ci ha bruciato il motore del cancello, perché è sceso a terra e quindi stanno arrivando. Va bene ragazzi, dai, io come mattina vado a Cagliari, non vado a testa, sono già le 10:15. Sentiamo, grazie delle chiacchiere, ciao Gianni, ciao Antonello, ciao Marco, chiunque fosse in ascolto. Passo in corretti, spengo tutto, bacio tutti i nuovi. E ci sentiamo domani, se ci siete, entrerò sicuramente a salutarvi ancora. Marco, per te fai girare, ascolti il finale, poi chiudo. Buonanotte a tutti. Ciao Claudio, buonanotte. Buona giornata per domani. Avanti Gianni. Ciao Claudio, ci sentiamo. Allora. Da Pisolo devi passare a Pegaso, come si chiama? Non so se ce la faccio già. C'è una riunione a Cagliari domani, direzione generale. C'è questo, diciamo, fuori rapato, portare un sacco di documentazione. Se mi può fare passare, se c'è qualche fronzata. Se passi, se dovessi passare, non dico di passare apposta, se c'è un DM1000 prendimelo e te lo pago. Se c'è volentieri, se c'è volentieri già, non ci sono problemi. Se mi libero in tempo reale, perché allora il prendo sicuramente non ce la faccio, perché devo fare un salto a sesto, passare a quarto, fare un sacco di tiri. Uscita quando me ne sto rientrando, tanto lui chiude, mi pare alle 7, 2-7 metri, non so, ce la dovrei fare. Se c'è te lo prendo volentieri, figurati. Niente di impegnativo, se ti capita di andare, niente di impegnativo, perché su internet vogliono pagamento con bancario o cose del genere, non mi fido più a farle, sinceramente, a mettere la carta su internet non mi piace. Non c'è più ProsePay, c'è PayPal che io non mi sono mai iscritto e quindi non l'ho più potuto prendere, ma quel microfono a me mi si addice molto, poi se busco l'apparecchio di dico io lo posso andare dalla grande di nuovo. Cavagap. Ci ha mangiato le orecchie, mamma mia. Va bene, dai, non ti preoccupare. Non è questione di impegno, è questione se ce l'ha, perché l'aria per passarsi ce l'ho, così, quando mi viene il passaggio, perciò già sono da solo, sono con la furgonetta, quindi non ho avuto le balle di colleghi, se c'è te lo prendo. Dovrei infatti avere quanto costa l'MB più 5 rispetto a Fusaro. Se c'è un MP5 non lo prendo, io ho un MP7 collegato sul 780, va meglio del MC60, è una cannonata, fatto con il motore giusto, direttamente Kenwood, va veramente molto bene, una bella radio. Dai, ci aggiorniamo domani, ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Se capita che lo prendi quello lì, te lo vedo io la mia MP5, c'è un nuovo. Va bene, d'accordo. E mi piace quello sul coso, come si chiama? Ma. Sul Milan, va bene. Domani quando rientro ti faccio sapere, insomma, non sono lì di telefono. Va bene, non c'è problema. Ciao, buonanotte a tutti, corda, riprendi, corda. Ciao Marco, che te l'ho chiamato. Corda. No, stiamo controllando. milioni di watt su un altro canale, ancora non è a 10 watt. Qua per arrivare, per scaldare bene, dove arrivate giusti, devi fare botta e risposta con una persona. Questo è regolato a 10 watt, qua è proprio caldo caldo, no? Non è nemmeno a 10 watt, mi pare che sia 8,5 di watt. Già sai, dopo non la di lavoro, guarda, perché non so che da 5 sarà 10, sto facendo io. 10 watt, come se arriva a 30 watt, se lo lascia fare così, e non lo toccavo mai, e non distorceva nulla. Ah, no, qua sai perché l'ho lasciato a 10 per eventualmente non disturbare, perché qua nessuno mi ha detto niente, però non mi fido. A me dalla macchina quello di fronte mi ha sentito nelle casse del computer, ed ero in macchina, avevo, che apparato avevo, fammi pensare, forse era il 3009. Ma la macchina è possibile, Vasco, magari anche sti po' di antenna che magari andava dritta dritta, non vedo, stiamo ascoltando lo stereo, ma poi non sei punibile se disturbi lo stereo, sei punibile solo se disturbi i telefoni o i televisori. Avevo anche 100 watt però, Allora cosa vuoi? Se ti vuole visitare in casa, io non ho mai fatto una cosa del genere. Quando arrivo vicino al centro abitato spengo tutto. Mi ricordo un episodio, ti ricordi Davide? Non mi ricordo il nome attivo, era 126 gialla. Allora, eravamo andati da Pomponio e lui stava modulando ancora a Baracchino, no? Mi pare che Pomponio stava scendendo, era già sceso, e c'è questo da un portone: sentite, voi con questi aggeggi mi avete rotto le scatole, perché io devo seguire la televisione, avete capito? Capito, dalla macchina, forse aveva qualche watt in più. Davide se lo stava guardando per dire, ma c'è il gatto. Davide, quello che è baffi, amico di Bravo Ciao. Sì, ma io ti sto parlando a fine anni 80, Tu mi stai parlando mio a Davide, lo vedo, che modulava anche la sorella, ti ricordi? A Davide io lo vedo ogni giorno, perché porta la birra, queste cose qui a Porto Torres. Ho capito, me lo ricordo quell'episodio, e poi si stava rivolgendo a me questo signore: con questi aggeggi state rompendo le scatole, se non chiamo, cosa avrà detto, chiamo i carabinieri, chiamano i carabinieri, cosa vuole da me? E se ne sono un bega, sono, non sopportano nulla, e nel mio palazzo ho dovuto fare una lotta con Claudio Giarusa. Una volta. Ah, l'altra volta ero in macchina, stavo piazzando l'apparato in macchina, ti parlo di un mese fa, forse due. Aveva questa signora che abita nella via più su, mi ha detto: ascolti, ma lei è una signora vecchia, mi dice, ma lei è radiatore? No, è un'altra cosa, non sono radiatore. Ascolti, guardi che io vedo il televisore con i puntini, la tenne nuova, il televisore nuovo. Ha detto, ma cosa vuole da me? Io ho detto, io parlo dalla macchina, le ho detto, c'avevo già l'antenna, ma non credo che... E poi anch'io vedo la TV a quadrettini, ogni tanto si blocca l'immagine, ma non lo devo imputare alle radio, no? Infatti, per tutta questa digitale terrestre che è naturalmente una boiata, secondo me andava meglio prima, a parte l'HD, il full HD si vede benissimo con quel sistema lì, ma tutto il resto che si interrompe, fare Lo so. Allora, noi in cucina abbiamo un televisore a tubo catodico della Daewoo, no? lì non abbiamo un'antenna, stiamo usando un'antenna interna di quelle con l'amplificatore, no? Però prendi poco. Prima noi con l'analogico, con quell'antennino dentro casa, prendevamo quasi tutti i canali, no? Più o meno bene. Adesso il digitale terrestre vedi pochi canali, capito? E a me non è piaciuto niente questa storia del digitale, ho già. Mi ha creato solo problemi. E a tutti non sono affette. Tu pensa che quando era vivo mio padre aveva 96 anni e lui guardava il televisore, non c'era il telecomando, ma lo usava, eccetera, eccetera. Quando è uscito il digitale terrestre, ho detto, papà, questo qui adesso non lo puoi più usare, devi usare questo. Ma perché lo devi buttare, sei nuovo? Lascia stare questo che va bene questo, perché io conosco questo. Ho detto, papà, è un nuovo sistema, come vuoi a spiegare a una persona di 96 anni? È un problema. Poi ci sono delle signore anziane, no, che ovviamente non sanno memorizzare i canali. Ogni tanto, soprattutto nei primi tempi, cambiavano le frequenze ai canali. Allora questa signora chiamava il tecnico che andava a risintonizzare il decoder, 30 euro quando va bene, se no sono anche 50, capito? Ci sono molti tecnici senza scrupoli che per risintonizzare il decoder chiedono agli anziani quelle cifre, tanto gli anziani non ne capiscono niente, allora basta che si veda la TV e allora va bene. Purtroppo è così, Marco. È vero, vero. Ma comunque questo digitale 3 prima ci hanno usato come prova, come cavi, per provare. Poi lui sembrava che avesse fatto chissà che cosa, che la prima era la Sardegna, ma ci hanno usato solo per fare le cavi per gli altri, poi, perché gli altri poi vedessero bene, capito? Lo so, i servi sono sempre le, posso dire il termine, le troie di turno, ci mandano almeno poligoni dove usano un grano impoverito giù, ci mandano navi con carichi velenosi da smaltire, la mandano a noi, noi usiamo, facciamo il digitale terrestre come cavie, vabbè. E poi non mi va giù questa storia della RAI, adesso chi vuole vedere paga, se vuoi Mediaset Premium paghi, se vuoi Sky paghi, se vuoi quell'altro pacchetto erotico paghi, perché non fanno la RAI così, chi vuole vedere la RAI, che a me non piace, non la guardo mai, chi vuole vedere la RAI paga, ecco, visto che adesso c'è la possibilità col digitale terrestre di oscurare la RAI per chi non la vuole, perché non lo fanno? Infatti, quello che dico io, a casa la RAI non si guarda proprio per niente, noi guardiamo Canale 5, Antenna Italia 1, poi D-Max, tutte queste televisioni qui, però la RAI è proprio esclusa, non guardiamo né uno né due né tre, nulla, no, è proprio difficile, capito? Seia, a meno che non ci sia un bel documentario oppure un bel film che alla Rai sono rari, invece siccome Berlusconi è ricco sfondato, compra i film più belli e li manda su Mediaset, poi sulle altre reti manda quelle serie televisive che la Rai ovviamente non dà, tipo Nip and Tuck, tipo Shameless, tipo Dr. House, tutto su Mediaset, le cose più belle per me. Poi per gli altri, per esempio mia zia che vuole fare la culturale guarda sempre la RAI, guarda sempre solo la RAI, e poi non guarda roba violenta, guarda quelle fiction per ricoglioniti tipo Don Matteo, quello con Terence Hill da vecchio, no? Si guarda quelle fesserie lì. Peppone e coso, i due preti, che l'altro uno era comunista e l'altro com'era? Camillo e Peppone. Vabbè, quello è storico e quello mi piace anche a me. Riguardo questi programmi da pensionati proprio mi. Ma vabbè, da, vuol dire che quando sarò pensionato anch'io mi godrò la RAI. Claudio, tu cosa guardi? Ma Claudio mi ha fatto un correttivo, vero? Non puoi, tu cosa guardi? Tu se potresti guarderesti quel pacchetto porno. No, assolutamente. Io mi guardo la nuova Sardegna. scrocco da internet, capito? I filmini. Un film da Emule, di Gigi Garitti, un film che ho visto, ero già ventenne, una zia molto disponibile con Gigi Garitti, era bello, E andavo a vedere questi film al cinema? No, videocassette, prestate, copiate, scambiate, divulgate, praticamente prima non si copiavano, cioè adesso si copiano magari CD, gli MP3, i film in AVI, prima c'erano le videocassette. Tornassi. Ah, tu te lo ricordi, Tanca, quello delle messaggerie sarde, che affittava le videocassette? No, io non ho mai preso in affitto, dico la verità, le ho sempre comprate. Allora, ti spiego, Tanca era mezzo, era di battuta, ma mezzo maniaco, ti diceva certe cose sconce di fronte a tutti, oppure ti faceva fare figure del cacchio. L'altra volta stava parlando, no, l'altra volta, 20 anni fa, stava parlando con un cliente, no? Arrivo io a riportare un film, no? E lui ce ne esce, Mimì, questo è Pistilla, questo è il cliente più pervertito che abbiamo. Poi lo stesso un amico andava lì a affittare, mi diceva di tutti i colori, di fronte a tutti, e quello diventava rosso, era una bocca di scandalo. Poi ti diceva, ascolta, l'altro giorno sai cosa ho visto? C'era mia figlia che faceva la doccia nuda, io lo spiavo, ti diceva roba del genere, era fuori di gambo. Era maniaco. E poi dalla faccia, ciu, dalla faccia lo conoscevi? No, non ho avuto mai di queste cose, perché io dico la verità, cassette così non ne ho mai visto, non ne ho mai né preso in affitto né comprato nulla, niente, proprio zero. Ehi, poche mi già, la curiosità era. Io mi ricordo che quando avevo tipo 8 anni, 10 anni, entravo in camera di mio zio di soppiatto, no? E lui sotto il letto si teneva quei giornali spinti, Le Ore, quei giorni proprio fornissimi, no? E certi erano addirittura in bianco nero, ti sto parlando fine anni 70, no? Io me li prendevo e me li leggevo, poi prima che tornasse lui li mettevo sotto il letto. Le Ore era spintissimo, poi a quell'epoca c'erano giornali anche discutibili, certi facevano vedere come violenze, no? Mamma mia, ce n'era uno allucinante, praticamente c'era questo che col piccone infilava la punta del piccone nella toppa di quella, infatti mi meraviglio che leggesse anche roba del genere, eppure erano di libera vendita in edicola oggi. Poi c'erano quei giornalini anche tipo a fumetti, tipo Lando, tipo Fiorello, tipo Dora la Vampira, Oltre Tomba, quelle cose che erano un misto tra sesso e roba infernale. Io mi guardavo tutti. No, io qualche volta nella strada, buttati così da piccolo, li ho visti che il vento sfogliava le cose, allora col piede ci fermavamo i fogli per guardare, ma da piccolini proprio, un paio di volte mi è capitato che mi buttavano nella strada. Quella cosa, la campagna vicino a casa dove c'è la numero 4, al Sacro Cuore lì. C'è la numero 4 più avanti, prima c'è la numero 6 che è la dove abitavo io di fronte. Poi c'è la numero 4, lì dove c'è la numero 4 c'era una specie di montinaggio. E buttavo tutte queste cose. Esatto, allora noi li trovavamo certe volte dietro i palazzi, nei muri, dietro i muretti nelle zone più nascoste, oppure li vedevamo nelle case abbandonate, no? Quindi in quelle case diroccate. Non capivamo bene cosa volesse dire, perché certo non trovavi niente, però ne trovavi buttati, non c'era nemmeno bisogno di fregarli a qualcuno, capito? Lì andavano bravati, magari guardavano le coppiette. poi vabbè, qualche videocassetta fissata, però la maggior parte delle volte è roba brutta, cioè girata male, gente a cui si piega, proprio gente che non è buona manco a trombare, capito? Poi c'è la pornografia di qualità, che è quella di Rocco Siffredi, Jessica Rizzo, tutte le pornostar più note. Full HD. E che vedi tutti i difetti, capito? Vedi le rughe, vedi i brufoli. Vabbè. Io ho sempre preferito farlo che guardarlo. Anch'io avrei preferito, ma io ne ho avute tre di ragazze e basta. Non ero nemmeno molto interessato ai primi tempi. Vabbè, poi su internet c'è una cosa allucinante, ti ritrovi dappertutto, fai su YouPorn, ti guardi i brevi filmati, ma non se ne può più, bisognerebbe passare cose più elevate, come si suol dire. Guardare, non toccare una cosa da soffrire, l'ho già detto. Via. Ovviamente Pomponio invece è ancora a Satanazzo, Pomponio. Aspetta, vabbè Satanazzo, l'avevo avuto io di aggrato, di allo sanno che abitavo prima. Veniva la casa e metto qua. Lo so, lì era zona popolare, quindi erano popolari anche gli approcci con le altre persone, capito? No. Ma quelle non sono ragazze, sono... sei donna, so. Nascere donna, porca miseria, avrei trombato tutti i giorni. Non è necessario, Marco, fatti prete. Sì, guarda, per quanto posso vedere la chiesa, cioè non è che abbia niente contro la chiesa, però boh, mi sembra quasi una cosa superata la religione già. Ricordati i francesi, durante la rivoluzione francese loro erano guidati dalla dea ragione. Sì, vabbè, ogni popolo c'ha le sue usanze, le sue credenze, le sue cose, ma è bello credere in qualcosa, perché hai un punto d'appoggio nel momento di bisogno, hai un appoggio a cui attaccarti, a cui appigliarti proprio. Lo so, però io francamente ho visto morire persone religiosissime, una va, diciamo, una zia, era vecchia religiosissima, però anche lei in punto di morte aveva paura, molta paura. Allora scusa, se vai in paradiso, se stai con Dio, che paura c'è di morire a un certo punto? Perché anche i cattolici alla fine del viaggio su questa terra se la fanno addosso prima di morire. La morte penso che faccia paura a tutti, si dico, e noi non ho paura della morte, poi già quando ti è il punto di morire, Marco, futti zitti. Io faccio il contrario, io farò il peccatore nella vita, poi quando ho il momento mi faccio confessare, mi pento dei miei peccati e tutto andrà a posto. Così la pensi, così è un discorso di comodo però. E tutto è comodo già. Qui c'era quel film con Per grazia ricevuta con come si chiama? Con Manfredi, no? Vabbè, lui non c'entra. C'era un tipo nel film che era un cinico tremendo, pensava alle donne, al sesso, non poteva vedere la chiesa, poi alla fine, in punto di morte, si è fatto confessare, si è fatto fare estrema unzione e quindi e l'altro è rimasto allibita, Manfredi, perché ha detto come questo ha predicato libertinaggio tutta la vita, contro la chiesa, contro tutto, e poi alla fine ci fa confessare e ci fa benedire, boh. Vabbè. Che tu capisci che tu arrivi. Ma diciamo che il credere in qualcosa di superiore diciamo che aiuta a rivolgerti a qualcuno quando hai bisogno, ti aiuta pregandoti, non lo so, io diciamo che un po' la religione, diciamo che un po' ha calato per me da quando è morta mia madre. Io pregavo tutti i giorni perché guarisse e invece purtroppo non ce l'ha fatta. Ho passato dei brutti momenti, ero molto attaccato a mia madre, era proprio come se fosse un'amica per me, perché mi confidavo, ci andavo molto d'accordo, dai. E quando è stata sul punto di star male, proprio dopo aver avuto un infarto, ho pregato tanto da credente, eppure è morta lo stesso. Il che è un po', forse per ripicca, forse perché mi sono sentito tradito, far staccarmi da una persona che io diciamo amavo molto, mi ha staccato anche dalla Chiesa. E quella è una reazione naturale già, quando tu preghi per salvare una persona cara e quella non si salva, tu sì, quasi per ripicca dici come, io ho fatto quello che ho fatto, ho pregato e non sono stato ascoltato, è una reazione normale. Adesso te ne dico una, noi non è che siamo tanto religiosi a caso, Nonna tanti anni fa è stata male, era stata tanto male che rischiava di morire, aveva blocco renale, aveva un sacco di problemi, era in ospedale. Mamma ha pregato la Madonnina delle Grazie, no? E stranamente stava facendo la processione da quelle parti per celebrare la Madonna delle Grazie, mi pare, una cosa del genere. E mamma si è salvata, pochi giorni si è salvata, ha migliorato e tutto. E allora lei si è convinta che è stata la preghiera alla Madonna delle Grazie. Mamma l'ha detto alla suora che c'era lì in ospedale, in corsia, no? Una suora anziana. Ha detto, ho visto sorella, le preghiere sono state ascoltate, grazie alla Madonna delle Grazie, no, mia madre si è salvata. E la suora sai che cosa ha detto? Ehi signora, è la bravura dei medici e la scienza che l'hanno salvata. Una suora è. Vabbè. Chi lo sa, Marco, ci sono tante cose misteriose che non si riescono a spiegare, cari. Io ti dico che mia madre aveva una signora, un'amica, che praticamente ha avuto questo cancro al seno e gli hanno dovuto tagliare il seno. Però questa cosa, questa ferita non guariva mai, era andata putrefazione, praticamente buttava fuori i bus, eccetera, eccetera. Lui voleva andare a tutti i costi a Lourdes. Il medico gli ha detto, signora, non so se ce la fa affrontare il viaggio, non le conviene mettersi in viaggio in queste condizioni. E se va in viaggio deve avere un'infermiera professionale che ricambia le bende e la medica ogni volta, perché sta sempre sgocciolando e facendo. Ma il fatto sa che così hanno fatto. Sono andati a Lourdes, lì c'aveva il tumore che era andato in metastasi tra l'altro, e un po' che pensavo però era andato in metastasi e praticamente era spacciata. È andata a Lourdes, si è fatto il bagno a Lourdes, è uscita con la ferita secca, asciugata, dove le avevano tolto il seno, asciugata completamente, e poi quando ha fatto tutti gli analisi sul cuore, tutte le cose non hanno trovato più segni di tumori. Difficile accettare una cosa del genere, non so già, non sapevo cosa pensare. Io so solo che di questi tempi la gente crede ancora a tutto. C'è gente che andando da questi truffatori, questi finti maghi, crede di curare il cancro con due paroline per dire, no? Figurati 2000 anni fa, se oggi la gente crede a tutto, figurati 2000 anni fa, a cosa credevano, a qualsiasi cosa gli dicessi. Infatti io più volte ho pensato che la religione cristiana possa essere la più grande truffa mai perpetrata in 2000 anni di storia, lo sai. Perché truffa? Spiegami perché. È di libera credenza, se tu ci credi è bene, se no ciccia, però appunto ti ho spiegato che quando c'è un appiglio dove attaccarsi ha un appoggio, diciamo, no? Ha qualcosa a cui appigliarsi, dai. Una speranza, come la vuoi chiamare, specialmente in condizioni di malattie gravi e cose del genere. Questa signora, sai come si chiamava quella di cognome? No, non lo so. Si chiamava signora Chiesa, guarda la casa. Vabbè, non lo so già. Ma si chiama quello il mistero della fede. Io finché non ho prove tangibili, io finché non vedo non credo, capito già. Poi sono disposto anche a credere, però devo avere delle prove tangibili. Tu sei come San Tommaso. Ehi, e non crede finché non gliela mettono dietro. No, se non, lui diceva che se non vedeva non credeva, ha visto e ha creduto. Quindi non voglio fare il prete della situazione, però io sono stato, allora ho cominciato da Lupetto, ho fatto lo scout, l'esploratore, il chierichetto, sono stato relazione cattolica e no, diciamo che ho professato molto nell'ambiente religioso. Io aspetta, sembrava di aver sentito un rumore. A me sarebbe piaciuto fare lo scout, magari non proprio da bambino piccolo, ma un po' più grande, un po' più in là. Però questi scout sono sempre impelagati con azioni cattoliche, acli. A me questo discorso non andava. Perché non fanno un gruppo di scout che non siano impegolati con la chiesa e roba del genere? Gli scout sono sempre nelle chiese. È la stessa cosa che dire, cosa ti posso dire, perché non fai il meccanico fuori dall'officina? È normale che deve stare lì, lì il posto suo è quello. Lo scout si è sempre formato nelle chiese, è una cosa cattolica. Io diciamo che ho avuto diversi, campi, ci sono stati degli innamoramenti con lo scout, eccetera, eccetera, gente che si è fidanzata, gente che si è anche sposata, insomma ce n'era tante, c'era anche Toribio, te lo ricordi Toribio? Ehi, Toribio. Agisci, eravamo della Agisci. Ehi, qui di una volta sono andato, andavo a trovarli. Dopo di io sono stato della Sassa di Primo, che era a Sacro Cuore, poi avevano formato un altro gruppo a Sacro Cuore, perché poi, diciamo, il prete che gestiva queste cose qua aveva preso una chiesa contro il suo, che sarebbe il padre Megafono, quando morì. Ha aperto la chiesa lì al monte dove c'era quella stalla prima dei cavalli. Adesso ha fatto la chiesa di fronte a casa, però se è ferma questa chiesa, lui non va avanti. Sì, mi ricordo questa sigla, Agisci, mi viene sempre in mente Azzisci, ma no, io lo scout l'avrei inteso più come una cosa per imparare uno a vivere con gli altri, che ancora non ho imparato bene a farlo, poi avere un po' di disciplina, saper fare qualcosa, qualsiasi cosa ti insegnano gli scout, invece c'è sempre la chiesa di mezzo. Sarebbe piaciuto uno scout tipo scuola semi paramilitare, qualcosa del genere. Ma guarda che prima di tutto c'hai un posto che ti viene ritirato dalla strada a una certa età, perché quando tu fai, diciamo, adesso fai il lupetto prima dello scout, ci sono le cucine e le lupetti, no? I piccoli sarebbero. Ti ritira dalla strada, hai un punto dove ti appoggio, dove trovare la gente, gli amici, ti insegnano a costruire i mobili, perlomeno noi facevamo gli sgabelli, i mobili per metterci, per appendere il vestiario nostro, tutte queste cose, i tavoli, tutte queste cose qui, poi si preparavano i dolci, si facevano le... come si chiama, le lotterie, insomma, per guadagnare i soldi per comprarci le tene, tutte queste cose qua. No, guarda, è una cosa bella, abbiamo fatto molta strada a piedi, io mi ricordo a San Carlo, a Cazzarola, abbiamo fatto un bel po' di strada, visto che c'è quello strapiovo di fronte a San Carlo, dove ci sono quelle cave, e abbiamo fatto le arrampicate in corda doppia. Oh, ambo, no, non ce l'ho presente già, perché non ce l'ho presente. E vabbè, ci fanno tante attività belle, ma io mi ricordo quando leggevo Topolino, ricordi le giovani marmotte, quelli scautini con la, mi pare che avessero un cappello con la coda di castoro. Sì, sì, sì, io per dire ero capo squadriglia degli antilopi. Ah, c'erano dei soprannomi, così è, mi sa di roba militare. Diciamo che sì, c'erano le squadriglie, praticamente c'era la guida, che sarebbe il capo squadriglia, diciamo, ogni cosa, c'erano le marmotte, c'erano gli sparvieri, c'erano insomma gli antilopi, erano diverse squadriglie, capito? Eia, aspetta un attimo, fai riprendere compagni un attimino. Qua sono, qua c'è problema, la faccio un paio di là. Stai guardando, ma scalzo Capri 2 da Capri 2. Ciao Capri 2, l'hai sentito? Io lo sono cattolico, lo sono anch'io cattolico, però diciamo che ho avuto questa specie di crisi religiosa dopo che è morta mamma. Sola Migliani, quando mia suocera mi ha detto chiamami mamma, e io ho detto no, mamma ce n'è una sola, così gli ho risposto, io lui gli darò del lì, del voi, come chiamarla mamma non me la sento. Un rapporto abbastanza forte, capito? madre, amica, eccetera, confidenze, tutto quanto. Nonno mi ha fatto più da padre lui, nonno era, vabbè, una persona abbastanza quadrata, onesta, quindi già con lui è stato un duro colpo, ma mai come la mancanza di una madre. Thank you. macchina. Figurati, la figa. Quando è ritornato ha fatto tutte le terapie, tutte le cose, non hanno trovato più nulla. Thank you. stavo viaggiando, piangevo a singhiozzi, ho detto qua mi sta avendo qualche esaurimento. aspettando che sto preparando roba, dai. Gianni, riprendi. Poi ho idea che Gianni si sia addormentato. Ho chiuso, attento a Gianni, Gianni. Antonello, vediamo se c'è Antonello, così gli do il cuore tipo. Niente da fare, tutti morti, vabbè. Oh, Gianni, io ti saluto e così vado a riempirmi la pancia. Ci sentiamo nei prossimi, dai. Comunque mi ha fatto piacere che qualcuno si sia ricordato di lei, anche il nome, perché nessuno sapeva dare una conferma precisa, ecco. Ok, ciao Gianni, buonanotte, ci sentiamo. Ciao anche gli ascoltoni, buonanotte.